Thank you. 就哎，最后咱吃完了就说不行了，不行了，那也得吃。两只鸡，两只鸡，一只鸡，一只鸡，啊，那咋回事？你这是哪里出的错？哎，我们不是有钱吗？ Pomeriggio libero. Io se ce la diamo va di là che dice buonasera a tutti, proviamo a cominciare. No, ma poi secondo me alcune storie. Allora, settimana scorsa, sempre qui all'Arcio Anomalie, si è tenuto un interessante incontro organizzato da Cinisello Sociale, in cui hanno avuto possibilità di parola i soggetti che più sono stati colpiti da questa crisi o comunque da questo momento economico, politico che stiamo vivendo, ovvero i migranti, i precari, i lavoratori e gli studenti, con lo scopo di riuscire a capire se si può uscire, trovare una via d'uscita a questa crisi comune. Ecco, con questo intento, in quest'ottica, lo scopo di questa serata sarà di magari riuscire a dare qualche strumento per capire il contesto in cui questi soggetti colpiti dalla crisi si trovano a vivere, partendo sia dal livello locale fino ad arrivare a quello locale. Magari è un obiettivo ambizioso e lo sarà anche di più, perché chiederò alle persone che interverranno di mantenere le risposte nel primo giro di interventi all'interno dei 5 minuti delle domande che faremo, così poi da dare la possibilità al pubblico con le loro domande di approfondire i temi che più ci stanno a cuore. Il filo conduttore sarà questa sera la presentazione del libro di Aldo Giannulli, autore che abbiamo qui stasera, ospite, 2012 La Grande Crisi. E chiederei quindi all'assessore Fasano, docente presso l'Università di Studi di Milano, di farci una breve presentazione di questo libro, in modo da introdurre il dibattito di questa sera. Sì. Allora, diciamo, mi gioco il pezzo subito, così almeno... No, io ho segnato due o tre cose, che poi magari vediamo di riprendere la discussione, però ve le lancio proprio a flash per mettere lì dei pezzi che secondo me sono alcune questioni importanti sollevate dal libro, che ha il pregio di essere un volume di uno storico che però si interroga sul futuro. Questa è una cosa, secondo me, estremamente interessante. Il primo passaggio che intenderei sottoporvi è proprio questo, cioè uno storico che si interessa del futuro per altri scienziati sociali, come possono essere politologi, sociologi, eccetera, assume una particolare salienza in rapporto alla dimensione della path dependency, diciamo così, della dipendenza del percorso. La storia conta. Tu, diciamo, nel libro sottolinei come la dipendenza dal passato serve per capire il futuro. Allora, secondo me qui c'è un primo elemento importante. Cioè, dove siamo non ci siamo per caso, ci siamo arrivati dentro a una serie di dinamiche di passaggi. Alcune di queste dinamiche hanno rappresentato per alcuni mondi e alcuni segmenti del mondo occidentale delle straordinarie metafore rassicuranti, dei momenti di grande effervescenza, e però poi ci hanno condotto anche dentro le contraddizioni e i nodi in cui ci troviamo oggi. Quindi questa prima dimensione, secondo me, come chiave di lettura, che è estremamente interessante, perché di solito lo storico non si proietta nel futuro, però lo storico che si proietta nel futuro e che guarda il futuro a partire dal passato ci fa capire quanto contano le storie pregresse per arrivare dove siamo, e in questo caso, secondo me, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi di questa storia, è una certa versione del liberismo che ha avuto consenso e forza a partire degli anni Ottanta nel mondo occidentale, questa chiave di lettura è importante. Ci sono poi gli elementi di discontinuità, secondo me, importanti di questa storia. Cioè, questa storia si proietta su alcuni fondamentali elementi di discontinuità, che sono quelli che riguardano come nel passaggio dal passato al futuro ci siano state comunque delle rotture, rotture che hanno segnato in maniera decisiva, ad esempio, gli ultimi 20 anni, e che, sempre dentro questa chiave di lettura legata alla dipendenza dal passato, hanno un ruolo importante. La fine della Guerra Fredda e il crollo dell'URSS, questo è un pezzo della nostra storia. L'11 settembre, le Twin Towers e quello che ne è conseguito, E quando penso a quello che ne è conseguito, penso alla famosa metafora della serpe nel giardino, penso alla cosa che tu citi, all'American Century, quel programma straordinario che cercava di recuperare quella che originariamente era una vena della letteratura e del pensiero politico in un'altra fase storica di stampo democratico, che era l'esportazione della democrazia, che in una certa fase storica fu usata anche da Clinton. Poi accadde Mogadiscio e quanto ne seguì e cambiò un po' idea a proposito, ma che era questa illusione di poter costruire la democrazia in maniera esogena, cioè calandola dall'alto, da fuori, ed è tuttavia uno dei pezzi importanti della nostra storia, perché proprio dal secondo punto di rottura, da dopo la fine della guerra fredda con l'11 settembre e le Twin Towers, diventa un altro elemento importante che segna, guardate bene, segna grosso modo un decennio, e ne portiamo ancora molto, come dire, le conseguenze, le tracce addosso. Il fallimento dell'American Century è, come dire, l'altro pezzo di questa storia che è un elemento di discontinuità. L'American Century era il programma di quei conservatori americani che, sulla spinta anche di quanto era accaduto dopo l'11 settembre, iniziarono a pensare che forse c'era un modo di esportare il modello politico americano di quel momento in quanto una certa versione della democrazia nel resto del mondo, e lo faceva anche con grossa presunzione. Io ricordo delle cose che forse avrai letto anche tu di Kagan e altri, che dicevano che loro erano l'unica grande potenza in grado di intervenire simultaneamente in 4-5 grandi scenari di crisi. E però ricordo anche come qualche anno dopo questa storia, cioè già dopo l'intervento in Afghanistan, dopo l'intervento in Iraq, dopo un anno dall'intervento in Iraq, uscì una bellissima copertina dell'Economist in cui si vedeva un Marines un po' disorientato con sulle spalle uno zaino che sembrava interrogarsi su: ma io adesso qui che ci faccio? Perché già era molto caldo il tema di come quella grande e straordinaria capacità militare dispiegata in quegli anni degli Stati Uniti non fosse in grado di chiudere le crisi, ma soltanto, come dire, di buttarcisi dentro a capofitto. E guardate, l'altro elemento che si coniuga all'orizzonte dell'American Century è quello del cosiddetto Washington Consensus, cioè di quel particolare protocollo economico che a un certo punto, sulla scorta delle posizioni derivate dalla scuola di Chicago, che erano le posizioni del liberalismo, soprattutto rispetto alla liberalizzazione nella circolazione dei capitali, ci diede modo di pensare che lo stesso modello economico potesse essere, non dico solo esportato, ma accessibile, e accessibile allo stesso modo da parte di tutti. Quello fu, come dire, l'orizzonte economico in cui si mosse il mondo occidentale e in generale la prima fase del mondo globalizzato per un periodo piuttosto lungo di anni, fino ai primi avvisagli di crisi 2007, poi 2008-2009. Ok, concluda il cronometro. Siamo in 5 minuti. Allora, mettiamo poi questi 4 punti. C'è la trappola, hai visto? Questi 4 punti e l'altro punto di discontinuità, che è un altro aspetto su cui possiamo far partire la nostra discussione, chiudo: il fallimento della strategia dell'egemone. Cioè, dopo il crollo dell'URSS, tutti crediamo, o almeno si inizia a pensare, che gli Stati Uniti possano essere in effetti, come dire, il polo di attrazione e di governo della situazione mondiale. Questo lascia pensare anche a qualcuno che quello può essere un criterio ordinatore per costruire una nuova governance globale. In realtà poi non è così, perché vediamo che quel controllo da parte di un egemone dello scenario internazionale oggi ci restituisce una situazione di un mondo che a livello di relazione internazionale è molto più frammentato di prima. Questi sono alcuni primi punti sui quali credo possiamo introdurre la discussione, poi ne ho altri, ci torniamo. Okay, sicuramente. Se ti danno un'altra manciata, se mi danno una... ma tutti dovete sottostare al dio cronometro. Allora, iniziamo a cercare di trovare un filo logico all'interno di questa discussione. La struttureremo in modo tipo intervista, sempre 5 minuti. Aldo Giannulli, storico, Università degli Studi di Milano. Partiamo dalla situazione pre-crisi. Quindi la domanda è questa: l'Europa e gli Stati Uniti, quindi l'Occidente, le loro politiche economiche pre-crisi, a cosa miravano? Cosa stavano facendo i governi prima della crisi? dopo il crollo dell'URSS si è affermato un modello, un'architettura di nuovo ordine mondiale, essenzialmente impostata su alcuni capisaldi. Primo, l'egemonia americana, l'affermazione di un unico impero, gli Stati Uniti come unico elemento di ordine mondiale in grado di intervenire militarmente in qualsiasi angolo del globo. E allo stesso tempo grande potenza economica che ha la moneta di riferimento internazionale. Secondo, la prevalenza della impresa privata sul pubblico e all'interno di questo la prevalenza della finanza sull'economia reale. Questo è il modello. All'interno dell'azienda l'eroe eponimo del neoliberismo è il manager, che è il grande genio degli affari. Bene, che cosa stava facendo il mondo prima della crisi? Stava scommettendo su un casinò. C'era una specie di roulette sulla quale noi credevamo si potesse andare avanti in questa maniera: decentrare l'industria nel sud del mondo, mantenere soltanto servizi e un minimo di industria di alcuni settori, armi per gli Stati Uniti, russo, poche altre cose, comprimere violentemente i salari e creare il dominio economico e il funzionamento dei paesi metropolitani sulla base dell'arricchimento finanziario. Guardate, quello che è successo è stato un paradosso, una specie di welfare finanziario. Noi prima abbiamo retto le società dopo il New Deal sul welfare di intervento statale, dove abbiamo detto che no, per carità, non bisognava smobilitare tutto questo, perché invece bisognava puntare sulla crescita, sullo sviluppo. Dopodiché, di fatto, il welfare è stato assicurato sotto forma di carte di credito, sotto forma di mutui, sotto forma di debito crescente, per cui noi abbiamo assicurato a una larga parte della popolazione. Il discorso riguarda in particolare gli Stati Uniti, che hanno sistematicamente consumato ogni anno il 5% in più di quello che producevano. Provate a fare gli interessi composti di cosa significa questo scherzo moltiplicato per 15 anni e capite perché gli Stati Uniti sono il paese più indebitato del mondo. Di fatto al welfare statale abbiamo sostituito il welfare delle banche, che consente un indebitamento crescente. Il crack è venuto su questo, è avvenuto sul fatto che ad esempio si arrivava a concedere crediti fino al 105% del valore di una casa da comprare, perché si diceva ma tieni anche i soldi per i mobili, a dei clienti che erano definiti clienti ninja nel senso che no asset, no job, cioè che non hanno lavoro, non hanno patrimonio, non hanno entrate, non hanno alcuna garanzia da offrire. Però il trucchetto qual era? Io la casa te la do, ti do il credito, tu pagherai alcune rate, poi non ce la farai, ti butterò fuori e mi riprenderò la casa. Siccome nel frattempo la casa è aumentata, perché eravamo in un momento in cui gli immobili negli Stati Uniti in particolare, ma anche in Europa e in Australia, si rivalutavano di mese in mese, questo giochino dava la sensazione alle banche di starsi arricchendo. Era un classico effetto, mi dispiace dover recuperare un qualcosa, forse il linguaggio di Marx, era puro capitale fittizio. Noi abbiamo creato degli asset bancari che erano puro capitale fittizio, perché quegli immobili che erano poi garanzia non valevano quello per cui erano apprezzati, e a un certo punto la folla si è sgonfiata. Quindi in realtà è arrivato all'incasso un boomerang che avevamo messo in giro, che prima o poi sarebbe arrivato, perché io nel libro inizio da una citazione di Totò. Totò che spiega che il solito debitore che non paga cioè scade la cambiale, si rinnova e il creditore gli spiega no, questa si paga. Prima o poi le cambiali si pagano, i debiti arrivano, no, non si possono rinnovare in eterno. Il giochino di pensare a un modello di sviluppo che scommettesse solo sul credito e quindi solo e unicamente su un debito che rinnovava se stesso aumentando, incrementando questo, è il giochino che si è, che ha funzionato certamente per una quindicina d'anni e poi è arrivato il momento di pagarlo. Sei stato talmente bravo che hai risposto alla seconda domanda nei 5 minuti della prima. Perfetto, quindi, la seconda domanda. Scusa, posso cedere un secondo? No, ancora ne devi dire di cose. Quindi a questo punto la bolla esplode. Quindi, se vuoi entrare un po' più nel merito, questi 5 minuti che ti avrei concesso come seconda domanda su come mai è successa questa crisi, poi l'altra domanda è. Quindi come si sono attrezzate le economie occidentali rispetto a questo boomerang? Sì. Ma guarda, semplicemente è successo questo, è successo che noi per un po' siamo andati avanti su questa musica del praticamente una delle pochissime industrie che funzionava qui, era l'industria edilizia, anche perché obiettivamente esportare l'edilizia non si può, quindi normalmente non accade. Eravamo arrivati a una situazione nella quale una casa veniva comprata e venduta 7-8 volte prima di essere costruita e ogni passaggio aumentava di costo. Si comprava una casa non per comprare una casa, ma per poterla rivendere 6 mesi dopo guadagnandoci su, perché la casa si riapprezzava e così via. Beh, tutto questo a un certo punto, ovviamente, come tutte le bolle, è arrivato a un punto di non sostenibilità. Però il guaio qual era? Quando è fallita la prima banca americana, e il prima della Lehman Brothers che fallisce nel 2008, nel 2007 fallisce una banca minore, il magistrato, siccome fallimento ha caratteri fraudolenti, finisce davanti al magistrato, chiede al banchiere: ma come ti è venuto in testa di investire in affari così sballati? Il banchiere gli ha risposto con una cosa che vale un manuale di economia. Ci parli, signor giudice, io ho dei clienti che mi affidano dei capitali. Il denaro non è una macchina che quando non hai i soldi la tieni in garage. Il denaro è un cavallo che anche quando non corre mangia e beve, lo devi alimentare. Io non posso ritirarmi e dire ai miei clienti non ho comperato niente perché non c'era nulla da comprare. I miei clienti vogliono gli interessi, io devo investire. E se al mercato trovo solo mele marce, e la cosa meglio che c'è sono le mele marce, prendo le mele marce. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche i buoni affari sono una risorsa limitata. Se c'è un eccesso di liquidità, ecco, cominciamo a entrare in quest'ordine di idee. Se c'è troppo denaro da collocare, quel denaro finirà per essere investito in parte in affari sbagliati, inevitabilmente. E il troppo denaro da cosa è venuto? È venuto, secondo me, da una cosa. È venuto da una specie di controrivoluzione sociale che è successa negli anni 80. Fino agli anni 70 c'è stato un tendenziale sviluppo, una crescita dei salari del lavoro dipendente, che hanno formato per la prima volta il fenomeno sociale del risparmio operaio, del risparmio, diciamo, dei lavoratori. Negli anni 80 questo risparmio è stato canalizzato in gran parte nell'operazione delle pensioni integrative. Sottoscrivi una pensione integrativa perché poi quando andrai in pensione avrai due pensioni anziché una e quindi... Che cosa succedeva? La pensione integrativa è un meccanismo per il quale la banca o l'operatore finanziario per 15, 20, 25 anni incassa soltanto senza dare niente, perché tu mi stai pagando la rata e io poi dopo, quando andrai in pensione, ti darò. Questo ha pompato nelle casse dei fondi pensione, delle compagnie assicurative, delle banche, grandissime quantità di liquidità che è stata in qualche modo canalizzata senza sbocchi, perché adesso dovrebbero arrivare le prime pensioni che sono state sottoscritte negli anni 80 e non so quanti vedranno effettivamente questo. Questa massa liquida si è ha creato quello che classicamente viene definito la trappola della liquidità, alimentando quel tipo di affari sbagliati di cui ti dicevo prima. Rispetto a questo, la risposta qual è stata? La risposta è stata quella del giocatore che tira la palla in avanti sperando di liberarsi dagli inseguitori. Abbiamo preso i debiti delle banche e li abbiamo spostati sui contribuenti. Le banche centrali hanno comperato i debiti insoluti che avevano i crediti che non riuscivano ad esigere le banche private. E qui è venuto fuori un paradossale, una specie di keynesismo per ricchi, per cui praticamente noi prendiamo dai poveri contribuenti per dare ai ricchi banchieri, tendenzialmente. Questo per un po' di tempo il problema l'ha risolto, perché in effetti le banche, che erano arrivate a non prestarsi più un dollaro perché nessuna si fidava più dell'altra, hanno ripreso il mercato interbancario, quindi ha ripreso anche la borsa, eccetera, eccetera. Benissimo. Però tutto questo è stato finanziato emettendo titoli di debito pubblico che scadranno fra 2 anni. Si è creata una massa di debiti. Abbiamo soltanto realizzato un momento di tregua. Adesso quei debiti che abbiamo scansato nel 2008-2009 attraverso uno Stato che se ne è caricato emettendo ulteriori titoli di debito, fra 2 anni arriveranno alla scadenza. Dopodiché la scelta è questa: se i risparmiatori non reinvestono in quei titoli, e c'è da dubitare che ci sia tanto denaro perché bisognerà pure far fronte agli interessi, e allora le scelte sono due: o dichiarare il default, cioè il fatto di non essere in grado di far fronte a questo, che non è una cosa irrilevante sul piano delle conseguenze, perché significa che il giorno dopo tu un titolo di Stato, uno, non lo piazzi più perché perdi totalmente la fiducia dei risparmiatori. Oppure fai fronte come? Emettendo ulteriore liquidità, e il risultato sarà quello che stai già vedendo, cioè una fiammata inflattiva fortissima che si scaricherà soprattutto sulle materie prime, sulle commodity, per la quale stiamo assistendo già da adesso alle rivolte urbane in tutto il Medio Oriente, ma che probabilmente si estenderanno ulteriormente. Quindi tu sei di fronte a questa scelta: o allagare di nuovo il mercato con ulteriore liquidità, con un denaro che farà sempre meno e quindi merci che costeranno sempre di più, oppure dichiarare il default, ma con il rischio della paralisi del credito. Gli effetti sul welfare invece di questa crisi? È molto semplice, è liquidato, perché parliamoci chiaro, qui il problema, noi siamo abituati a un'idea, siamo abituati all'idea che le crisi siano crisi da sovrapproduzione. Questa è la lezione che ci ha dato Marx, e quindi tutto sommato noi, ecco, se fossimo un po' meno dogmatici capiremmo una cosa, che le crisi possono anche cambiare. Questa non è una crisi a sovrapproduzione, non abbiamo magazzini pieni di merci invendute, abbiamo un consumo eccessivo a cui si fa fronte con l'indebitamento. Il risultato è che oggi tu hai una massa di debiti che ti strangola, non hai più risorse per lo sviluppo. Non hai più, ci siamo mangiati le risorse delle generazioni future. Il conto lo pagherete voi, sia chiaro. Noi ci stiamo mangiando il denaro che serve a investire per darvi un lavoro. Questa crisi non è una crisi in cui dobbiamo discutere di a chi dobbiamo dare qualcosa di più. Questa è una crisi in cui bisogna discutere a chi dobbiamo togliere qualcosa per pagare i debiti e avere la possibilità di investire sullo sviluppo. E allora il problema diventa non se diamo una lira in più di salario, il problema diventa se dobbiamo sopportare questo sforzo come reddito da lavoro, o se invece i soldi li dobbiamo andare a prendere da un'altra parte. Dobbiamo andare a prenderli, per esempio, dalle rendite finanziarie. Quando si parla di patrimoniale, perché tutti insorgono e dicono no, la matrimoniale no. Momento, Quando parliamo di patrimoniale, di che parliamo? Se parliamo della patrimoniale sulla casa, per cui andiamo a tassare per l'ennesima volta il ceto medio che magari si è comprato una casa e forse una cosina al mare, non ha molto senso. Se la patrimoniale è andiamo a toccare Tronchetti Provera, cambia completamente il significato. Quindi il problema vero, il welfare, come dici tu, è legato alla crescita, allo sviluppo. Ma lo sviluppo come lo finanziamo? Dove andiamo a prendere questi soldi? È qui che si apre la partita. Ok. Ho sfondato sicuramente tutti i record. Ma sei un po' anarchico rispetto al cronometro, però siamo nei tempi. Quindi questa crisi invece sugli assetti internazionali di rapporti di forza tra potenze ha cambiato qualcosa? Per dire, noi siamo abituati all'idea di questa grande potenza democratica, gli Stati Uniti, che in maniera poi discutibile comunque controllano più o meno attraverso altre agenzie con deficit democratici l'intero assetto del globo. Questa crisi cambierà qualcosa? Potrà cambiare qualcosa? E perché? Già cambiato. Primo, perché il vero problema degli Stati Uniti, che infatti si sono affrettati a scaricare una parte dei costi attraverso il nuovo protocollo di Lisbona sull'Unione Europea per quanto riguarda la NATO, questa crisi ha rivelato che gli Stati Uniti non ce la fanno a pagare l'intero. Gli Stati Uniti, l'intero è una cosa che costa, perché quando hai 1 milione di uomini in armi fuori dei confini nazionali, in 745 basi distribuite nel mondo, hai 6 flotte con 13 portaerei e ogni portaerei per fare 1 miglio marino beve un pozzo di petrolio, tutto questo costa la bellezza di 1.750 milioni di dollari al giorno. Chiaro il concetto? Se fate i conti, questo significa quasi 700 miliardi di dollari all'anno, che è, guarda caso, è esattamente la cifra che ha tirato fuori il piano Paulson nel 2008 per fare fronte al primo crack delle banche. Guarda caso. Questi sono gli ordini di grandezza. Allora, il vero problema è: tutto questo può essere mantenuto a che prezzo e chi paga? È ovvio che, per esempio, i rapporti di forza con la Cina sono evidentemente cambiati, anche se però, attenzione, c'è un mito della Cina rullo compressore, eccetera, un po' eccessivo, perché la Cina è certamente un grande gigante, ma un grande gigante con piedi d'argilla, perché ha degli elementi di debolezza che spesso vengono trascurati e che sono invece elementi di debolezza molto forti. Quindi certamente è cambiato il rapporto con i BRIC, cioè i 4 paesi emergenti, Brasile, India, Russia e Cina. Emergono nuove potenze, però emergono anche degli squilibri terrificanti all'interno di questo mondo, e le rivolte per il pane sono il primo segnale che hai. Il vero problema è: ma l'architettura che abbiamo messo in piedi dopo il crollo dell'URSS e del bipolarismo riuscirà a resistere a questa crisi o no? Io credo che molto difficilmente sarà così. Vero? Certo, ma allora non usciremo mai da questa crisi? Ma no, ne usciremo, da tutte le crisi si esce. Il problema è a quali prezzi, come ne usciremo, con quante ossa rotte usciremo da questa crisi. Certo che a un certo punto finirà. Però attenzione, perché io ho l'impressione che qui ci sia una forte sottovalutazione. L'idea è: di crisi ne abbiamo avute tante, le abbiamo passate tutte, come si dice da queste parti, è passato Napoleone, passerà anche questa. E no, non è così, questa crisi non è come le altre, questa crisi è decisamente più profonda e decisamente più cattiva, fa male. E prima ce ne rendiamo conto e prima ci rendiamo conto di quali sono le operazioni chirurgiche da fare proprio sul sistema, sull'architettura di potere, sui processi decisionali che reggono il mondo oggi, forse prima ce ne accorgiamo e meno danni riusciremo ad avere. Più ritardiamo la cosa e peggio è, più i danni saranno pesanti. Ok, allora iniziamo ad avvicinarci a noi. Assessore Fasano, a noi hanno raccontato che la crisi finanziaria in Italia ci ha colpito di meno in quanto sistema bancario è più, possiamo dire, provinciale rispetto al resto dell'Occidente. Quindi le chiedo, come ci ha colpito la crisi in Italia e come il nostro governo l'ha affrontata e la sta affrontando? Ma secondo me, diciamo, da questo punto di vista ci sono tre punti che cita anche Aldo nel suo libro. Cos'è? Perché? Per quando? Non c'era prima. Sì, come c'era? Non troppo, ma c'era prima, non lo avevo, lo avevo. Dove è stato non prima? Non ti preoccupare. Allora, dagli alpini. Non ho bevuto vino. Grappa, infatti. Allora, era una cosa bianca, però era frizzante. Allora, c'è un passo, una parte del libro dove Aldo recupera quell'analisi che si è fatta, diciamo, di recente rispetto a il minore impatto sul caso italiano, con tre elementi in particolare. Sono tre elementi che citi. Il primo è il basso indebitamento privato. Io aggiungerei però una cosa che è in crescita. Cioè, è vero che noi abbiamo un indebitamento mediamente più basso degli altri paesi del settore privato, quindi delle famiglie, però è anche vero che gli ultimi dati ci dicono che sta crescendo anche da noi. Poi, come dire, restiamo bassi relativi, però il valore relativo fa il conto col fatto che sta crescendo anche in un paese come il nostro. Cioè sono sempre di più le famiglie che ricorrono a forme di indebitamento per fare fronte alle spese ordinarie, quotidiane. Il secondo elemento è un indebitamento prevalentemente interno, cioè il debito che abbiamo noi è un debito verso noi stessi e questo ci espone di meno dal punto di vista, diciamo, degli effetti di questo indebitamento. Il terzo elemento è un debito estero, soprattutto europeo, quindi comunque un debito che sta, diciamo, dentro al novero di quell'Unione Europea che adesso sta cercando anche di darsi un coordinamento di politiche per cercare di contrastare le crisi. Detto questo, questi tre elementi, lo dice sempre anche Aldo nel suo libro, fanno il paio con il fatto che noi abbiamo comunque un debito pubblico, in modo particolare il rapporto debito su PIL molto alto, del 118%, però questi tre elementi indeboliscono gli effetti della crisi. Quindi io sono, diciamo, convinto di questo. È vero che noi la subiamo un po' meno, però è anche vero che il nostro paese è un paese che ha un sistema di welfare non esattamente sviluppato come quello di altri paesi. È vero che il nostro paese è un paese che ha una scarsa mobilità sociale. È vero che il nostro paese è un paese dove le diseguaglianze sono mediamente più alte che altrove. E allora diciamo che se noi subiamo meno effetti esterni, è anche vero che questa crisi però secondo me porterà con sé degli effetti redistributivi interni piuttosto marcati. Le politiche del governo, secondo me, guardate, io credo che uscendo da una polemica, come dire, governate voi, governiamo noi, governa il centrodestra, noi avremmo fatto meglio, lasciando perdere questa polemica, probabilmente anche il centrosinistra si sarebbe trovato in difficoltà a contrastare questa crisi. Io quello che dico però è che dentro una crisi si scelgono le politiche con cui si cerca di contrastare. Credo che nel nostro paese un limite sia rappresentato dal fatto che non si è cercata di costruire una politica di contrasto alla crisi che guardasse agli effetti redistributivi. In altri paesi, nel contesto europeo, si è fatto. In Germania si è fatto. Seconda cosa, nel nostro paese non si è cercato di costruire delle misure di risposta alla crisi che cercassero di individuare i fattori decisivi per ripartire, ad esempio investendo su formazione, educazione, scuola e attività che costruiscono il capitale umano, permettendo quindi a un paese che è storicamente e strutturalmente debole sul lato delle risorse prima di ripartire nel momento in cui gli effetti della crisi si faranno sentire un po' meno. Questo credo sia il limite principale del caso italiano. Niente attenzione agli effetti redistributivi, totale assenza di attenzione ai fattori strategici per la ripresa, così non si contrasta una crisi. Assessore Siria Trezzi, assessore alle politiche sociali di questo comune. Sappiamo che i comuni stanno affrontando questo periodo con un taglio ai trasferimenti, col mancato incasso dell'ICI sulla prima casa, e sì, questo periodo diciamo dal 2007 così, e con questa chimera del federalismo che verrà. Su Cinisello Balsamo, come stiamo affrontando questo periodo, quali sono le difficoltà e le soluzioni che si stanno cercando di dare? Sappiamo che si sta discutendo il bilancio, quali sono i problemi e le soluzioni sul tavolo? Posto prima una valutazione più generale rispetto anche al passaggio che ha fatto il dottor Giannulli e nel libro e qui su il welfare, dove sostanzialmente lui dice che il welfare in qualche modo è stato, come dire, un po' smantellato, non c'è. Io riconfermo un po', anche pensando alle conseguenze di questa crisi. Che cosa vuol dire non avere in questo momento un welfare che sia in grado di affrontare comunque la crisi? Lui prima parlava di questi accessi ai mutui, anche di crediti, anche di persone che non avevano le condizioni per accedere. E questo a Cinisello lo vediamo, cioè nel senso la Crocetta, ad esempio, cittadini stranieri che hanno acquistato la casa col 100% del mutuo, fragili dal punto di vista lavorativo, in 3 secondi hanno perso la casa. Questo è successo anche a cittadini di Cinisello Balsamo, italiani, con un lavoro che si sono visti in qualche modo in questa veramente ubriacatura di, siccome Berlusconi è l'uomo arrivato, anch'io da questo punto di vista ho il mio progetto individuale, accendere, le banche me lo consentono, in 3 secondi piombati comunque in situazioni di categorie non fragili, ultra fragili. Allora, una situazione in cui è difficile da questo punto di vista dare delle risposte. Premetto, quali sono le risposte che tendenzialmente i comuni che fanno bilanci da lacrime e sangue, ormai è considerato un po' da parte dei comuni una frase all'ordine del giorno, quali sono le misure che i comuni rispetto al welfare possono prendere? Non c'è una risposta strutturata da parte del governo, mancano i trasferimenti, la regione li ha ridotti, non c'è un'idea di come deve essere affrontata questa situazione. In più sta, dilagando un po' questa idea di questo welfare solidale, no? Quindi che a me viene da dire, cos'è il welfare solidale? Facciamo il fondo per i disoccupati, ma lo faremo, l'abbiamo fatto anche a Cinisello, l'hanno fatto tutti i comuni, l'ha fatto il Cardinale, lo fanno tutte le associazioni che hanno un pochettino di disponibilità economica. Tutto bene, questo serve, tampona, può essere per alcuni una risorsa, dopodiché non è una risposta strutturata, è più che solidale, c'è un po' del filantropico pietistico assistenziale che finisce con la fine dell'impeto di generosità. Oppure che cosa è stato messo in atto? Facciamo i buoni, le doti. La dote scuola, la dote formazione, la dote lavoro, bene, sono stati milioni di euro piombati in giro, non so quanti posti di lavoro abbiano creato in più, credo pochissimi, sicuramente chi ha gestito tutti gli enti accreditati che hanno gestito questo pezzo hanno avuto un aumento sicuramente delle loro entrate, dopodiché tutto questo sistema che è così parcellizzato, che si produce sostanzialmente sull'erogazione di contributi, non riesce a strutturare un qualche cosa che poi produca una possibilità di un orizzonte di stabilità economica. Ma questo perché? Perché, ripeto, ha ragione lui. Il problema è rivedere un sistema di regole condiviso alla base. Se siamo in una situazione di difficoltà, bene. Poi se si parla di patrimoniale si spaventano tutti, se si parla di una tassazione più equa dei redditi si spaventano tutti, ma il sistema solidale vuol dire che chi ha più dà in un momento in cui si è in difficoltà. E non dà così random perché è più o meno generoso, dà perché comunque si sta in un sistema di regole condiviso. Questo non sta succedendo. Sta succedendo che ognuno, dai singoli comuni alle regioni, e non solo per il federalismo, e non solo per ci si arrabbatta in qualche modo pensando che si possa trovare, come dire, una soluzione, che comunque è sempre una soluzione tampone a delle risposte di una, di, come dire, di una situazione che non ha solo della crisi economica, si sta trasformando per alcuni aspetti anche in crisi sociale, in una difficoltà, come dire, anche a tenere un livello di coesione. Per cui, cosa fanno i comuni? Cosa fanno i comuni? I comuni cercano per quanto è possibile, o perlomeno a Cinisello si cerca per quanto è possibile nelle difficoltà di bilancio, di mantenere quello che è il livello di servizi, di, come dire, attivare tutte le opportunità che il territorio in questo momento sta offrendo, cercare, come dire, dei partenariati anche virtuosi per la gestione del, non per l'erogazione, per la gestione di alcuni servizi, e si cerca in qualche modo di fare sì che non siano i cittadini a pagare direttamente, anche perché le soluzioni poche sono, vuol dire contenere le spese fisse, vuol dire per rispettare il patto di stabilità e per, come dire, contenere la diminuzione dei trasferimenti. Le soluzioni sono contenere le spese fisse, contenere le spese generali e cercare in qualche modo di aumentare le entrate. Aumentare le entrate, anche lì c'è poco da dire, o l'aumenti con l'aumento delle tasse, ma la scelta in questo momento sarebbe una scelta, come dire, folle. Cinisello, sappiamo tutti, non è una città che ha cittadini con un redditi tali che possano permettere di essere tassati, di aumentare le entrate e di non subire poi un contraccolpo economico, e quindi questa è una scelta che da questo punto di vista viene accantonata, e quindi si cerca sostanzialmente di aumentare le entrate mettendo un po' a profitto quelli che sono le possibilità che l'amministrazione comunale, e lo sappiamo tutti, lo vedremo anche sul bilancio, anche alienando parte dei beni che questa amministrazione ha. Io su questa cosa lo dico con franchezza, le amministrazioni cambiano, l'utilizzo degli spazi sono diversi, le necessità cambiano, il comune non è tenuto ad essere un immobiliare, può pensare che vendere uno spazio, alienarlo, possa servire per poi, come dire, avere la possibilità di trasformarne altri e renderli più efficienti rispetto ai bisogni che possono nascere. Nadia Rosa, della segreteria del Partito della Rifondazione Comunista di Cinisello. Sono solo queste le possibilità che ha un comune per affrontare questa crisi, o che altre soluzioni ci possono essere? Allora, io credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che la crisi non sia superata e che sia ben lungi dall'esserlo, ma vorrei analizzarla dal punto di vista di chi purtroppo la crisi la vive ogni giorno sulle proprie spalle. Quindi la crisi permane nella sua gravità, morde ancora e si fa sentire soprattutto sul piano dell'occupazione e della sua qualità. E non si prospettano all'orizzonte politiche di sviluppo efficaci, come è già stato detto dai miei predecessori. Si confermano la profondità e il carattere strutturale di questa crisi, ed questo è evidenziato anche dall'aumento al ricorso alla cassa straordinaria e in deroga, che è aumentata del 16% rispetto al 2010. E dal numero di licenziamenti, infatti dobbiamo far fronte a un numero sempre crescente di disoccupati. E occorre comunque aver sempre presente che dietro a questi numeri ci sono uomini e donne reali, famiglie intere che vivono in condizioni di estrema difficoltà. L'Istat dichiara che l'8% delle famiglie vive in stato di povertà e circa il doppio fatica ad arrivare alla fine del mese. E questa percentuale la percentuale di popolazione che sopravvive grazie alle istituzioni sussidiarie come la famiglia e i comuni sta aumentando. I comuni in che modo? I comuni con i servizi fungono da ammortizzatori sociali. Queste cittadine e questi cittadini non possono essere lasciati soli. E l'abbassamento del livello dei servizi alla persona renderebbe ancora più acuto il peso della crisi sulle famiglie. E ancora di più sulle persone sole, specialmente quelle più deboli e bisognose. Oggi più che mai serve che il comune mantenga il suo ruolo di erogatore e gestore di servizi e non ceda al ricatto di un patto di stabilità che li strozza, come è stato detto anche da Siria, e che vuole relegarlo al mero ruolo di cogestore di servizi privatizzati. Cosa significa privatizzare i servizi? Significa entrare in una dinamica di mercato e quindi di profitto. Il ruolo del comune invece deve essere diverso. Il comune è il riparo alle dinamiche di mercato rispetto all'erogazione del servizio. E noi ribadiamo che non siamo disposti a sacrificare i servizi sull'altare del patto di stabilità, pur conoscendo ovviamente le sanzioni e le conseguenze di un'eventuale uscita comporterebbe. Cosa mettiamo in campo? Noi crediamo che si debba lavorare per la costruzione di un fronte di opposizione serio alle regole imposte dal patto e che i promotori di questa protesta debbano essere proprio i sindaci di centrosinistra, sostenuti ovviamente ed appoggiati da tutti i partiti che compongono la maggioranza. Quindi se da una parte bisogna tutelare i cittadini combattendo sul piano politico per difendere i servizi dalle esternalizzazioni e i beni comuni, pensiamo all'acqua, dalla privatizzazione, dall'altra occorre intervenire sul territorio per rispondere alle esigenze contingenti dei cittadini, in attesa che si sblocchi questa situazione stagnante, anche se non la vedo molto vicina alla soluzione. E da qui nasce l'esigenza del nostro circolo di costruire un progetto di intervento sociale nella città. Questo progetto si è concretizzato a partire dalla primavera del 2010 in numerose iniziative che abbiamo messo in campo nel territorio. Ad esempio una scuola di italiano per migranti. Noi pensiamo che l'integrazione dei migranti sia una cosa estremamente importante e fondamentale soprattutto per il loro inserimento nel mondo del lavoro e per l'integrazione sociale. Poi abbiamo creato un mercatino del libro scolastico usato per contrastare il calolibri. E poi l'esperienza più importante sono i GAP, i gruppi di acquisto popolare. Ormai da 5 mesi siamo presenti con un balchetto al mercato del sabato in via Cilea, nel quartiere popolare di Sant'Eusebio, e distribuiamo prodotti di qualità a prezzi bassi, stando attenti ovviamente che i fornitori non siano interessati da fenomeni di lavoro nero e sottopagato. E questa esperienza ci ha dato molta soddisfazione, nel senso che la cittadinanza ha risposto in modo estremamente positivo, probabilmente per la condizione contingente che la crisi ha creato. Infatti in pochi mesi abbiamo oltre 260 aderenti a GAP, e ovviamente non sono tutti iscritti a Rifondazione Comunista, altrimenti saremmo un partito un po' più grosso. Abbiamo anche pensato alla creazione di un gruppo di lavoro. Da circa un anno ci troviamo una volta alla settimana, ma analizziamo l'impatto della crisi sulle aziende e i lavoratori del territorio. A riguardo abbiamo prodotto una mostra, una mappatura del tessuto industria della città, con particolare attenzione allo stato di salute che sta peggiorando con estrema, insomma, siamo estremamente preoccupati. Anche perché potrei portare l'esempio appunto della Nokia Siemens, che era uno dei più grandi insediamenti industriali nel metalmeccanici nel nostro territorio, occupava più di 800 persone ed ora è rimasto solo il parcheggio di Nokia Siemens. Ne cito un'altra, Paganelli. Paganelli in questo momento sta anche lei pagando il prezzo della crisi, non perché non abbia delle commesse, non abbia lavoro, ma perché non ha la liquidità necessaria, quindi le banche non sono più disposte a dare la liquidità necessaria per poter avviare poter dare vita a queste commesse, e quindi rischia di chiudere, rischia un fallimento e ci ritroveremo altre 140 persone per la strada. Oltre a un'analisi abbiamo anche organizzato iniziative di approfondimento e divulgazione, tentiamo di mettere in contatto le varie realtà di lotta del territorio e tentiamo anche di sostenerle economicamente. Infatti gli scorsi 2 sabati abbiamo fatto un banchetto con questa iniziativa che si chiama Arancia Metalmeccanica, abbiamo venduto 210 kg di arance in 2 sabati e il ricavato è andato a sostegno delle lotte della FIOM. Questa grande risposta della cittadinanza a questo tipo di iniziative non fa che farci capire come la gente, i cittadini e le cittadine si hanno ormai la canna del gas e cerchino modi alternativi, quindi acquistare prodotti a prezzo più basso piuttosto che appunto rivolgersi al GAP, perché probabilmente arrivare alla fine del mese sta diventando sempre più difficile. Abbiamo in cantiere dei progetti futuri, ci sono dei corsi gratuiti di informatica, delle ripetizioni, sempre per cercare di integrare e coinvolgere il maggior numero di persone possibili, perché noi crediamo che unificare le lotte sia l'unica strada da percorrere, perché il conflitto sociale sia l'unico modo per poter comunque rispondere a questa crisi. Quindi noi vogliamo uscire dalla crisi, ma vogliamo uscire da sinistra. Allora, con questo quindi abbiamo voluto dare un quadro del contesto, partendo dal globale, quello che è successo, le ripercussioni globali, fino ad arrivare al nostro comune. Ecco, così abbiamo tempo per approfondire le tematiche che più interessano chi è presente. Quindi adesso do la parola a chi vuole. Nel frattempo che la timidezza... Io ho una domanda. Prego. Grazie per essere qui. La mia domanda è secca e mi piacerebbe che trasversalmente la declinaste tutti rispondendo in maniera... cioè, sotto l'ansia del tempo, così c'è spazio per tutti. Cioè, tre proposte concrete, ma veramente concrete, da domattina... che secondo voi si potrebbero fare per iniziare ad affrontare la crisi, cioè banalmente. Grazie. Chi vuole? Beh, vediamo prima un po' di... Lui. Ma, allora, finora si è parlato di... si è parlato di questa crisi, si è parlato dei salti mortali che fanno i comuni per rispettare il patto di stabilità. Attualmente a livello europeo è in discussione un nuovo patto di stabilità che, se possibile, è persino peggiorativo dell'attuale. Stanno pensando di imporre a livello europeo l'aumento delle pensioni a 67 anni, di imporre a livello costituzionale un tetto al deficit pubblico. In tutto questo, le risposte che finora vengono date dai vari governi di vario colore, penso al governo di centrodestra come in Germania o in Francia, o da governi di centrosinistra come in Grecia e in Spagna, è sempre la stessa. Nessuno ha mai pensato di colpire chi la crisi l'ha causata. Viene data liquidità alle banche senza mettere delle regole strette alle banche, senza acquisirne la proprietà, cosa che nessuna banca, se mi concedono il mutuo, hanno un titolo di proprietà temporaneo loro, quindi questa è una cosa. In compenso tagliano sempre, c'è il taglio della spesa. Il taglio della spesa c'è, ma dove avviene? Attualmente, finora, tutti i governi hanno tagliato la spesa ai servizi sociali. Nessun governo ha tagliato la spesa alle spese militari o alle infrastrutture, che vengono usate sia l'acquisto di armi, sia costruire grandi opere, soprattutto quelle, diciamo, anziché migliorare quelle esistenti, ma costruire nuove grandi opere, come ad esempio in Italia c'è la costruzione della TAV, con il resto della rete ferroviaria che fa abbastanza cagare, diciamolo con un linguaggio un po' popolare. Però si fa la TAV, io posso arrivare a Roma se ho i soldi per comprarmi il biglietto di Frecciarossa in 3 ore, in compenso se devo arrivare qua dietro, se devo arrivare, devo farmi 20 km di treno, probabilmente ho mezz'ora di ritardo. Quindi questa crisi sta diventando un processo costituente, è quello che dobbiamo renderci conto per cominciare a pensare che questi patti di stabilità vanno attaccati in modo profondo, perché sta diventando un processo costituente che erode, oltre ai salari, come ha ricordato prima Giannulli, erode anche i diritti costituzionali che finora delle democrazie occidentali, non solo, come ad esempio il diritto allo sciopero, che è sotto attacco con i vari piani Marchionne che stanno per essere replicati. Vengono attaccati i diritti sociali, vengono attaccati i posti di lavoro in una logica di fabbriche che chiudono, fabbriche non in crisi, usando la crisi come scusa e come maschera. Questa crisi sta costruendo un processo costituente, come la crisi degli anni 80 ha cominciato un primo attacco ai diritti dei ceti deboli, ai diritti dei lavoratori, questa crisi vuole essere usata per dare un colpo finale. Ora, quello che secondo me andrebbe fatto è cominciare a fare un ragionamento da livello locale fino ad un livello europeo, di cominciare a contestare le logiche neoliberiste di patto di stabilità e di competitività, le privatizzazioni e le liberalizzazioni dei servizi pubblici, per cominciare a dire basta speculazione, riprendiamoci il controllo dei beni comuni e ricominciamo a ricostruire uno Stato che stia dalla parte dei ceti più deboli. Prego, altre domande oppure interventi entro i 3 minuti? Allora, leggo, quali possono essere... Ah, questo è già bello. Perché arrivano domande scritte? Tecnologia ci supera. Iniziamo a rispondere a questa. Quali possono essere 3 proposte concrete? Vabbè, era già la prima, sì, sembra, no? Sì. Ma io vorrei anche capire, per esempio, a chi vuole rispondere, che cos'è questo patto di stabilità? No, questo magari è materia tua, tu figa. Non vi do la definizione tecnica perché non la so, faccio sempre la stessa sui servizi sociali, non quella al bilancio. Il patto di stabilità sono una serie di paletti, vincoli che vengono messi ai comuni per mantenere sostanzialmente un rapporto stabile tra sono parametri, ecco, per mantenere un rapporto stabile tra le varie spese che un ente pubblico fa, le spese del personale, le entrate devono essere mantenute eque durante tutto l'anno, perché il patto di stabilità viene monitorato più volte, viene monitorato il raggiungimento, se si sfora in alcuni parametri che sono, non so, la spesa del personale, un livello di entrate che deve essere ripartito durante l'anno, la possibilità di avere soldi liquidi che devono essere spesi, questo permette di rientrare all'interno di questi parametri. Sforare uno di questi parametri vuol dire uscire dal patto di stabilità e sostanzialmente avere poi tutta una serie di ripercussioni, tra cui non avere indietro come finanziamenti la quota per cui si è sforato dal patto di stabilità, vedere aumentata l'IRPEF d'amblè ai cittadini, non avere bloccato qualsiasi assunzioni e per gli amministratori non poter essere, credo, eletti candidati per 2 legislature, che tra tutto mi sembra, devo dire, il dramma minore. Catania vuol dire che non voteranno più. Catania è fuori dal patto di stabilità, perché Catania, Roma, un pezzo di Milano sono fuori dal patto di stabilità, perché comunque il patto di stabilità può andare in deroga rispetto ad alcune scelte governative, e anche qui la scelta è di un'equità incredibile. Roma no, perché è capitale, Catania no, perché probabilmente il sindaco è il medico di Berlusconi, Milano no, perché c'è un pezzo dell'Expo e quindi deve introitare delle risorse superiori a quanto ha messo nelle spese. Poi c'erano altri comuni che erano rimasti comunque fuori dal patto di stabilità. Il patto di stabilità nasce però come un sistema voluto dall'Europa per controllare sostanzialmente le spese dei comuni. Ad oggi viene anche usato soprattutto per tutti questi soldini che abbiamo accumulato e che non possiamo spendere. Il comune di Cinisello cosa c'è? 12 milioni di euro accumulato che non può spendere. No, 12 milioni di euro tra quelli, poi ce n'è un pezzo che vengono tra 12 milioni di euro che non può spendere, che sono congelati lì per il patto di stabilità, ma che sostanzialmente vengono utilizzati un po' come cassaforte per contenere il debito pubblico. Non nasce come una gabella per i comuni, poi è stato indurito ultimamente, nasce come uno strumento, come dire, di equità e di controllo delle spese, dopodiché è passato un po' nella testa soprattutto dei ministeriali, che i comuni sono enti spendaccioni e quindi l'hanno irrigidito. Io mi sono accorta nel fare l'assessore che nei livelli superiori c'è proprio in testa che i comuni in qualche modo sperperino i soldi. Devo dire che è un po' un'idea che nasce da un eccesso negli anni precedenti di consulenze, un eccesso probabilmente di spese. Vero, vero, assolutamente vero, il Comune di Milano in questo senso docet, non gli finirà neanche bene per alcuni aspetti. Ed è vero, c'è stato sicuramente un largheggiare da questo punto di vista, un largheggiare anche dei costi della politica, un largheggiare anche nei costi delle aziende, un largheggiare nei costi di rappresentanza. vi assicuro che non è sempre stato così per tutti i comuni e vi assicuro che ad oggi non è così, perché i comuni sono stati chiamati a rispettare il patto di stabilità con rigidità, ma i comuni sono stati chiamati anche a dover sopportare più come dire, oneri rispetto a una cittadinanza in difficoltà, e sono stati chiamati comunque a dover svolgere più funzioni di quelle che avevano in precedenza, supplendo funzioni di natura ministeriale e funzioni di natura anche regionale. Questo quindi ha portato ad avere una grave defunzione, una diminuzione di risorse e, come dire, anche più bisogni a cui rispondere. Quindi l'assicuro che se per fino a 10 anni fa questa cosa era vera, ad oggi posso assolutamente, come dire, escluderlo. E un ammorbidimento del patto di stabilità, così come era stato consigliato, sarebbe da questo punto di vista una boccata d'aria per i comuni, ma una boccata d'aria anche per i cittadini. Sì, se mi ridate il mostro lì rosso, mi piaceva, così evito di dilagare. Poi magari l'introduzione al suo libro la faccio un'altra volta, quando ho un po' più di tempo. Allora, secondo me, diciamo, due sono i punti di fondo. Ecco, ok. Abbiamo un confronto su due modelli, nel senso che dobbiamo decidere se stiamo parlando di una cosa in cui, come dire, c'è un altro mondo rispetto al capitalismo industriale possibile, o se stiamo parlando di possibilità di riforma del capitalismo attuale. Questo come punto di partenza, mi sembra che sia latente nella nostra discussione, ci sta però. Cioè, nel senso che io prendo la strada della riforma del capitalismo attuale, escludo che esista un mondo alternativo a quello della produzione in una società moderna, altamente differenziata e complessa come la nostra, che possa essere qualcosa di diversa dal capitalismo industriale. Il capitalismo industriale ha i suoi problemi, prendo la strada di chi dice come riformare. Le tre soluzioni, lo butto lì, tre possibili soluzioni, a mio avviso. La prima, la revisione di alcuni meccanismi della parità di bilancio che sono insiti nel patto di stabilità. In questo sono d'accordo come Siria, specifico una cosa. Io farei una revisione che ci permetta uno sblocco di alcune linee di investimento. Nel senso che noi abbiamo bisogno, adesso io non sono uno che insegna economia, mi è capitata per pura occasione e fortuna, perché dovevo far quadrare il lunario prima di andare a Londra, di farlo per un rapido tempo, ero un semplice esercitatore. Però da quello che ho orecchiato, ci sono alcune ricette che noi abbiamo usato in altre epoche di crisi e stanno ad esempio nella metodologia keynesiana. Cioè, io ripeto, non sono un esperto di economia, però ho la strana sensazione che noi non riusciamo a uscire da un meccanismo di crisi di questo tipo se non svincoliamo alcuni pezzi dal deficit spending, cioè dall'assenza di deficit spending, cioè se non ammettiamo la possibilità di fare anche delle spese in deficit. Cioè, ho la sensazione di questo, non vedo nel meccanismo attuale, che è un meccanismo quello del patto di stabilità stesso, della parità di bilancio, la possibilità di trovare soluzioni per creare un po' di ossigeno. Cioè, se devo creare un po' di ossigeno, probabilmente devo allentare. Sono d'accordo sulla revisione e l'allentamento di alcuni meccanismi. Dico che vanno messi lì. Cioè, noi possiamo allentare sulle linee di investimento, non possiamo allentare sul resto. Perché in realtà il patto di stabilità è anche quello straordinario bottino che i comuni hanno nelle casse e che comunque a sua volta c'ha lo Stato grazie ai comuni per stare dentro dei parametri di tenuta dei fondamentali economici, della compatibilità che ci siamo costruiti in questi anni. Quindi se noi usciamo dal patto di stabilità, al di là di quello che diceva Siria, rischiamo pure di finire con le pezze al culo in maniera molto più rapida, violenta e pesante di quanto potrebbe accaderci altrimenti. Però questa prima misura, rivediamo su alcune cose, io sono d'accordo con una revisione sui meccanismi di investimento che liberino la possibilità di fare investimenti, proprio perché credo che non ci siano altre posizioni e soluzioni possibili rispetto a quelle del buon Keynes, non peraltro perché non ho visto in giro alternative. Secondo meccanismo, la possibilità di introdurre una tassazione, come dire, che generi degli effetti redistributivi. In una situazione di crisi dove c'è una grave conseguenza in termini redistributivi sui ceti più poveri, è legittimata una società e la politica è legittimata a ragionare su ipotesi di tassazione di elevati redditi. In questo senso faccio il veltroniano, sono a favore di un'ipotesi di tassazione patrimoniale, l'unica cosa che mi chiedo è come riusciamo a costruire, come dire, il consenso intorno a quello, perché dobbiamo costruirlo riprendendo i fili del discorso che faceva Siria prima. Sono dell'avviso che però non è che abbiamo molte alternative, cioè se noi guardiamo la crisi nei suoi effetti redistributivi dobbiamo andare a toccare delle ricchezze che tutto sommato non sono state toccate dalla crisi. Cioè le carte di credito, Barclays ha messo col culo a terra una serie di cittadini medi del nostro paese come di altri paesi dell'Occidente, e in compenso la Barclays fa le feste con i propri azionisti su Panfili splendidi, nella rada delle Antille, quindi probabilmente c'è la possibilità di intervenire sugli effetti redistributivi. Bisogna recuperare una cultura politica che spenda un argomento a giustificazione del fatto che certi effetti negativi nella distribuzione del reddito non sono leciti in una società democratica. Terzo elemento, investimenti in formazione, perché credo che quello rappresenti comunque un punto di ripartenza. Investire su formazione, su ricerca, su università, su scuola e cercare di lì di costruire anche quell'insieme di competenze, di risorse umane che permettano alle persone già a livello individuale di avere dei presupposti migliori nell'ingresso del mercato, di difendersi meglio, e oltre a questo anche il fatto che investimento in formazione vuol dire investire su quelli che dovrebbero essere i capitali di domani della società della conoscenza, è un'altra possibile linea di soluzione, cioè un altro possibile luogo di intervento di politiche che permettano di agire nel contrasto della crisi. Dopodiché abbiamo, come dire, secondo me, da intenderci rispetto alla nostra discussione. Il patto di stabilità è possibile rivederlo, non è assolutamente possibile immaginarne un'uscita unilaterale, anche nell'ambito di un'azione politica o di una discussione politica, perché comunque le conseguenze che pagheremo nel sistema complessivo sarebbero molto gravi. Cosa diversa è creare le condizioni in politica perché si possano allentare dei meccanismi, cioè io credo che quella sia la linea. Come la linea non sia quella dell'attacco all'Europa, perché l'Europa tutto sommato ci salvaguarda. Una cosa che dovremmo fare, secondo me, è dopo 10 anni dall'introduzione dell'euro andare a rivedere il meccanismo dell'euro, cioè andare a vedere dove fissiamo la parità dell'euro. Anche perché qualche governo sì, qualche governo no, nel momento in cui fu introdotto l'euro, fece o non fece delle politiche per evitare un'inutile speculazione sui prezzi. Il nostro paese all'epoca non le fece, ad esempio. Quindi io penso che queste possano essere alcune misure. Però ripeto, autodichiaro che mi muovo nel campo di chi è per la riforma del capitalismo, non per il superamento. Ho i miei limiti. Vedi, però riconosco. Ma invece per me è stato chiesto appunto quali sono le cose da fare. Però da domani mattina, le cose da fare da domani mattina, mettere in campo appunto una tassazione delle rendite finanziarie al fine di redistribuire i conti del reddito, questa sicuramente è una buona idea. Non sono d'accordo con lui quando dice che il patto di stabilità sembra un dogma, invece può essere cambiato, modificato, e non solo per dare più ossigeno, ma anche per cambiarlo, per cambiare dei fattori, perché se tutti i comuni o comunque la stragrande maggioranza, e mettiamoci dentro anche i comuni virtuosi, sono stati messi in ginocchio da questa cosa, vuol dire che qualcosina che non va c'è, e quindi magari costruire un fronte comune per cercare di vedere se una piccola soluzione c'è, anche per garantire appunto i nostri cittadini e le nostre cittadine, secondo me vale la pena di provarci e tentarci, anche perché appunto il rischio, se privatizziamo poi, perché fisiologicamente cosa succederà? Non saremo più in grado di garantire la qualità dei servizi che Cinisello ha sempre garantito. Dovremo per forza rivolgerci al privato, anche se si tratta di un privato sociale, va benissimo, sì, ok, si tratta di un privato sociale, ma comunque si tratta di un privato che per forza di cose deve sottostare alle logiche del mercato, invece il comune deve guardare, se un servizio va male il comune ripiana, il comune non deve fare utile, un privato deve fare utile. E quindi secondo me è un grosso rischio questo, secondo me ci sono altre strade. Io invece sono di quelli che vogliono uscire dal capitalismo. Quello dice anche nel libro. Lo dico esplicitamente. Realisticamente, però, non credo. Ma l'ho detto apposta. Poi non posso nascondermi. Realisticamente, non credo che questo sia la portata domani mattina o comunque in tempi politicamente prossimi. Però c'è capite. Posso anche starci in questa fase a discutere entro un quadro di economia di tipo capitalistico, possibilmente introducendo qualche elemento di superamento. Però c'è capitalismo e capitalismo, eh? Allora, partiamo da una cosa. Che cosa è successo in questi anni? In questi anni sono successe due cose fondamentali. Primo, abbiamo trasferito quote di ricchezza dalla remunerazione del lavoro alla remunerazione del capitale, delle banche. Secondo, abbiamo messo l'economia reale sotto la finanza. È arrivato il momento di ribaltare queste due cose. È arrivato il momento di bastonare la finanza. Questo ha creato una situazione nella quale noi abbiamo l'1% della popolazione mondiale che si avvia a detenere il 40% della ricchezza mondiale, e il rimanente 99% che si divide il 60% residuo. Ragazzi, in questa situazione non si mantiene un regime democratico, eh? Sì, è chiaro questo. Cioè non è soltanto a rischio le condizioni di vita, cioè è a rischio anche la struttura democratica della società. È arrivato appunto il momento di fare i conti e la redistribuzione. Come? Qualche proposta. Primo, non tassazione delle rendite, capiamoci quando si parla di tassazione delle rendite finanziarie. Se la tassazione delle rendite finanziarie è la tassazione dei BOT, dei CCT, eccetera, eccetera, è una bestialità, detta recentemente dal mio caro amico Michi Vendola, che ha detto una sciocchezza totale in questo senso. I BOT, i CCT, eccetera, non sono le cose in cui investono Marchionne, esatto, e Tronchetti Provera. La mamma di Vendola. Sono, sì, appunto, sono la pensionata, il lavoratore va in pensione e investe la liquidazione là. E non è lì che... No, veramente noi vogliamo far votare Lega a tutta questa gente. Diciamo, se usciti di matti, è piacere. No, per esempio, la tassazione delle transazioni finanziarie. Lì bisogna introdurre una tassazione. Anche, guardate, può sembrare una cosa stupida, dello 0,50% su ogni transazione finanziaria. Sapete che effetto avrebbe? Perché dici, beh, dai, lo 0,50% cioè, è semplice. C'è un fenomeno che è il fenomeno del cosiddetto frequent trade, cioè operatori di borsa che acquistano e vendono la medesima partita, per esempio di merci, il medesimo contratto futuro, di future, no? Più volte nella stessa giornata, 20-30 volte, al solo scopo di far levitare il costo di questa cosa. Siamo arrivati alla follia per la quale se tu dici a un operatore di borsa, ma scusami, ti rendi conto di che cosa stai comprando? Cioè, sai cosa c'è dentro? Ti rispondono, ma io non devo sapere cosa c'è dentro, devo sapere tutto della condizione per poterlo rivendere. Io compro solo per vendere e dopo lo ricompro per rivenderlo. E questo è il meccanismo che sta facendo impazzire il mercato, per esempio, delle commodity. Allora, se tu introduci una tassazione anche contenuta, questo, per esempio, riduce enormemente questo fenomeno. E quindi, per esempio, comprime questo tipo di rendita finanziaria. Ci sono poi altri meccanismi che possono essere adottare. Seconda cosa, noi attraverso la rendita finanziaria e attraverso delle retribuzioni demenziali che diamo ai manager, ai calciatori, cioè i calciatori hanno soltanto la funzione di rendere simpatico tutto questo. Noi paghiamo tanto in modo da poter pagare ancora di più qualche altro e dire, ah, vedi, è il talento, noi paghiamo il talento. O poi questi manager, il talento raro che paghiamo, sono tutti quanti Ronaldo. Ma allora perché siamo in crisi? Perché cioè, se sono tutti così bravi e talentosi, com'è che siamo in crisi? E allora, prima cosa, al di sopra di una certa aliquota di reddito, tassazione crescente fino al 75%. Perché è arrivato il momento di ritrasferire, ci sono sinceramente delle retribuzioni assolutamente fuori dalla grazia di Dio. Ma vi sembra, scusate, abbiamo discusso del fatto che certi diritti sociali, un certo salario alla FIA è un lusso che non ci possiamo più consentire nelle condizioni del mercato mondiale, va bene? Ma quando discutiamo del lusso della retribuzione del management della FIA, quanto incide quello che noi diamo ai manager, perché poi non è solo Marchionne, a discesa poi ce n'hai tanti altri, quando discutiamo di questo lusso, adesso non se ne discute mai, allora per esempio introdurre una serie di elementi di tassazione fortemente progressiva sul reddito è credo un elemento di democrazia in questa fase. Terzo, eliminare gli sprechi nella spesa pubblica. Qui bisogna tagliare la spesa pubblica senza toccare i servizi. E diciamoci la verità, non è vero che non ci stanno sprechi nella spesa pubblica. Io mo non voglio prendermela con i comuni, penso all'università. Quanti acquisti duplicati abbiamo? Quanto personale distribuito irrazionalmente? Quale utilizzo degli spazi? E stendiamo un pietoso velo su questo. Per non dire poi della spesa, diciamoci le cose come stanno, le consulenze non erano affatto licenziate, erano spese clientelari per finanziare le campagne elettorali, su cui c'era anche un giro di tangenti. E diciamo le cose come stanno, su. E questo lo ha fatto anche l'amministrazione di sinistra, per esempio a Roma. E queste cose ce le dobbiamo dire. Allora, per esempio, la spesa politica va tagliata brutalmente, va tagliata come livelli di retribuzione demenziali che noi riconosciamo ai nostri politici, va tagliata come numero dei componenti delle varie assemblee, va tagliata anche come livelli decisionali. Noi siamo l'unico paese del mondo che ha 5 livelli, anzi col federalismo ne avremo 6, cioè è una cosa che sta fuori dalla grazia di Dio. Quindi per esempio un'altra cosa, reperire risorse, dopo sono d'accordo con Luciano quando dice investiamo nella ricerca, investiamo non solo nella ricerca, io direi creiamo le condizioni per riportare la manifattura in Occidente. Ovviamente in un quadro di visione mondiale del lavoro, per cui ovviamente il tessile non lo faremo più qui, siamo d'accordo, ma si possono fare tante altre cose. Allora dobbiamo reperire queste risorse, perché noi ragazzi non possiamo dire, sapete, voi avete un magnifico avvenire nei call center, e no, se vuoi creare una politica occupazionale devi avere una politica industriale. Non esiste una politica occupazionale che non abbia al suo centro la politica industriale, appunto tu parli di capitalismo industriale, ecco. Allora se già ci poniamo questi primi obiettivi è già una cosa, ma possiamo fare un altro fatto, un'altra cosa ancora. Qui esiste ancora una situazione di sofferenza di debiti, dei mutui negli Stati Uniti, delle carte di credito, moltissimo. Siamo arrivati a qualcosa come $73,000 di indebitamento medio per carta di credito, che naturalmente la gente non avrà mai per poter ripagare, perché che vuoi che una famiglia tiri fuori $73,000 solo per pagare il debito pregresso. Allora possiamo fare una cosa, non dare soldi alle banche. Per esempio il suggerimento di Rubinini non era poi tanto male. Lui proponeva, di fronte alla crisi dei mutui, un intervento più strutturale, cioè facciamo un'operazione, lo Stato compra, finanzia, non la banca, finanzia il debitore dandogli un contributo, il debitore accetta di accelerare il pagamento delle rate, la banca rinuncia a una parte del suo credito. In questa maniera tu abbatti il debito del 40%, rimetti il debitore in condizione di poter pagare anche più celermente. La banca ci ha rimesso qualcosa, però hai ridato fiato al credito, al debitore, non alla banca. Cioè qui questa specie di keynesismo per ricchi che abbiamo fatto, il risultato non è proprio. Allora, per esempio, questa è un'altra cosa che si può fare. Ancora un'altra cosa che si può fare è questa. Io credo che sarebbe strategicamente importante batterci perché una parte del salario non avvenga sotto forma monetaria diretta, ma sotto forma non di partecipazione agli utili, state attenti, di azionariato dei dipendenti, non dei singoli dipendenti, ma del collettivo dei lavoratori. E questo in modo crescente. Il modello a cui io penso è quello del piano Meidner in Svezia di 35 anni fa, che era intanto una cosa che introduceva qualche piccolo elemento di superamento del capitalismo, qualche cosa si può fare, ma soprattutto intanto avrebbe l'effetto di mettere il sale sulla coda. Cioè, se dovevamo andare a discutere se trasferire la Fiat da Torino alla Polonia o in Canada, beh, vogliamo esserci anche nel consiglio di amministrazione. Se Marchionne si liquida uno stipendio da 5 milioni di euro all'anno, che non mi sembrano proprio esattamente pochi, discutiamolo insieme in consiglio di amministrazione. Questo è un elemento di democrazia che contrappeserebbe certe cose. Ultima cosa, contrariamente a quello che diceva il compagno che è intervenuto prima, su una cosa io invece sono d'accordo, sul fatto di introdurre, o perlomeno valuto con attenzione l'idea, di introdurre il vincolo costituzionale sul debito pubblico, perché è stato fatto un uso irresponsabile di questo negli anni andati, è stato in qualche modo comperato il consenso. Negli anni 70 l'operazione di stroncare i movimenti è stata fatta in gran parte comperando il consenso attraverso l'emissione di titoli di debito pubblico, i cui interessi ormai hanno gonfiato il debito, ci troviamo adesso a dover pagare. Allora l'idea di mettere un freno all'uso di questo strumento, che è stato abusato nettamente dai governi, in sé non è una cosa malvagia. Solamente devi vedere come lo fai, in che tempi, con quali modalità, quali tetti, e tutte cose discutibili. Ma in ogni caso io credo che la battaglia sia quella in parte di redistribuire, ma soprattutto di tirar fuori soldi per investire sullo sviluppo, perché se noi non investiremo in questo non faremo alcuna redistribuzione. Se noi continueremo ad avere questo disavanzo della bilancia commerciale con la Cina, non c'è, o con l'India anche, non c'è futuro. Noi abbiamo bisogno di riequilibrare la bilancia commerciale, abbiamo bisogno di riportare la manifattura in Occidente, abbiamo bisogno di fare una politica industriale. E per esempio a me questa storia che il settore che tira di più, che è già uscito dalla crisi, è il settore del lusso, mica sta tanto bene. E allora per esempio l'idea di introdurre una tassazione sui consumi di lusso, se vuoi la barca prendila, ma insomma è giusto che paghi anche. Se fai la crociera alle Antille, quello troviamo il modo anche di farlo pagare. Se compri la casa d'Antigua. Oh, è la casa d'Antigua, quella però è fuori dal territorio nazionale, non gliela puoi. Però insomma altre cose che possono fare. Allora, ecco, interventi di redistribuzione, interventi di ridimensionamento del potere decisionale del capitale finanziario rispetto al capitale, diciamo, industriale, sono già degli elementi su cui si può lavorare. Pratiche di redistribuzione sì, ma soprattutto reperimento di risorse attraverso una tassazione delle transazioni finanziarie e dei redditi al di sopra di un certo tetto, per poter abbattere la quota del debito e trovare le risorse per investire nel sviluppo. Sì, Abbiamo ancora una ventina di per minuti. Per gli attrezzi, com'è possibile garantire i servizi sociali che il comune non può farsene carico? Chi è timido può mandare le domande, come è stato fatto a Bona. C'è proprio... comune, qui c'è una domanda per la presa. Posso aggiungere una cosa alle tre soluzioni? Intanto una roba la dico a Fasano sul capitalismo. Io adesso non so se è morto o non è morto, però sicuramente... Mi sembra che cosa di ottima salute anche quello più deteriore. Comunque è finito il modello unico americano. Questo è quello del Washington Consensus. Dopodiché monetarista, per me e per te, che siamo andati avanti con tutti i congressi dei DS in cui si sentivano, ma in America lo fanno, e questo lo fa, tutto quello che in America lo faceva non lo dice più nessuno adesso, neanche Veltroni. Quindi già questo è un segnale di cambiamento, no, ma noi eravamo è un segnale di trasformazione radicale. Io poi rispetto a te un po' più indietro, io trovo che dicevano in America lo fanno, io dicevo lo fanno in America, persino la sanità americana è stata elogiata, che era per antonomasia quella che non funzionava, ma in quei congressi lì non sì, guarda. C'è stato un momento che adesso basta, nel momento in cui Obama avrebbe bisogno in qualche modo di essere legittimato, no, a questo punto non lo citiamo più, va bene così, poi ragioneremo. Io invece volevo aggiungere, prima di rispondere a questa domanda, sulle tre cose da fare per... intanto faremo arrivare a Vendola la comunicazione che è eccessivo questa idea di tassare i bot, forse sì. la faremo arrivare secondo per la mamma, un po' comprando la mamma, anche perché secondo me è l'unica forma di ricchezza che conosce sono i bot, altro l'altra cosa che voglio dire rispetto invece all'utilizzo agli sprechi pubblici. Io sono convinta che in alcune situazioni gli sprechi pubblici permangano, ma da questo punto di vista io credo che abbia fatto però proprio una battaglia etica, una questione etica, cioè i soldi pubblici hanno un valore doppio dei soldi privati e vengono dalla tassazione redistribuita dei cittadini e in quanto tale non devono essere sprecati. E non sprecare non vuol dire non solo fare le consulenze, vuol dire anche organizzare male gli enti. E questo è un dovere, quello di dire, siccome il mio obiettivo principale è l'interesse dei cittadini, è l'interesse pubblico, io ho il dovere di organizzare la mia macchina comunale, la mia organizzazione, anche di enti pubblici superiori, penso anche a enti che sono strumentali, in maniera adeguata perché non ci siano sprechi, perché lo spreco di soldi pubblici è veramente inaccettabile da questo punto di vista. Questo permetterebbe di dire anche che però sai, lo spreco dei denari pubblici è una cosa tanto capitalistica, eh. È la destra americana. Va bene. Comunque, no, su questa cosa io sono, come dire, un pochettino... Vedi che anche lei... No, io sono purista su questa cosa. Lo spreco dei soldi pubblici per me è veramente una cosa insostenibile. In più, da qui ne deriva anche che tutta questa vicenda per cui si può... pagare le tasse o non si può, è un optional. L'evasore esiste come scelta? Beh, non esiste proprio. Se questo mi produce soldi pubblici che hanno un valore, l'evasione va contrastata da un punto di vista etico e anche da un punto di vista di reato. Cosa che su questi anni, secondo me, un pochettino tutti si è vacillato, perché tutte le volte che si parla di tassa, comunque era gabella. E su questa cosa forse bisognerebbe dire anche ai leghisti, che comunque tanto fanno i puristi, e che comunque anche loro si sono un po' resi protagonisti, entrati nei meccanismi di qualche spreco, di qualche eccesso, che forse le tasse, o comunque la partecipazione ai costi del pubblico, non sono poi così da condannare, quando però il pubblico è un pubblico che funziona. E su questo me lo dice Fasano domani. E poi, com'è possibile garantire i servizi sociali se il comune non può farsene carico come unico erogatore? In realtà non capisco perché la domanda ha un po' un ossimoro, il comune come unico erogatore. Il comune non è un unico erogatore. Perché il comune deve essere un unico erogatore? Non sta scritto da nessuna parte. Il comune deve essere il garante, il controllore, il coordinatore, quello che programma la tenuta dei servizi. Deve essere quella che ha la capacità di governare la gestione dei servizi. Non sta scritto da nessuna parte che debba essere quello, tranne che per alcuni norme specifiche, l'erogatore diretto dei servizi. E non è detto sempre che il comune sia la garanzia perché pubblico di qualità dei servizi. Io su questa cosa lo ripeto, ci sono situazioni del privato sociale che non sempre fa profit, come non è detto che il comune debba ripianare e fare deficit, perché non funziona così. Il comune non ripiana, il comune può sostenere, ripianare non esiste, perché vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona in alcune situazioni. Il comune deve sostenere, ma non è detto che non ci siano esperienze congiunte di collaborazione con un privato sociale no profit, consapevole, preparato, che in alcuni casi è anche, come dire, più, ha più competenze di quelle che abbia l'ente locale, che col comune possa creare un vero esempio di sussidiarietà orizzontale. Io su questa cosa credo di essere, come dire, abbastanza serena nel riconoscere un valore, anche un valore sociale, a quello che il territorio ha espresso. E se viene espresso attraverso un privato sociale in grado col comune di costruire, di migliorare la qualità dei servizi, bene, io su questa cosa credo che possa essere anche un'opportunità e non sempre invece una negatività. Non sto cedendo, non sto abdicando, non sto facendo una cosa perché costa meno. Sto facendo invece un'erogazione di servizi che da questo punto di vista può essere adeguata ai bisogni e poi da questo punto di vista valorizzare esperienze, competenze, capacità, forme di sviluppo del territorio. Credo di aver scoperto. Era diretta dritta. Beh, quella era proprio di tua pertinenza. Sì, sì. Secca. Lo scrivi io? La devo scrivere? No, credevo fossero già tutte lì raccolte. No, io volevo chiedere, allora, Nadia Rosa prima ha parlato di una possibilità, cioè che i comuni diventino un po' non solo dei soggetti che in qualche modo cercano di reagire al patto di stabilità e alle altre conseguenze di questo tipo di gestione della crisi a livello locale, ecco, non solo di reagire, di cavarsela all'interno di questa situazione, ma che i comuni diventino anche un po' un soggetto di lotta contro questo tipo di gestione della crisi, nel senso che noi adesso si è parlato di alcuni possibili, diciamo, alternative a questa gestione della crisi, ma si tratta tutti di azioni che possono essere svolte a livello nazionale, no? Invece Nadia Rosa ha parlato di, lei ha fatto la proposta di appunto di un fronte comune tra gli enti locali per appunto opporsi a questo tipo di gestione. Ecco, io vorrei chiedere ai due assessori se secondo voi questo tipo di prospettiva è immaginabile, non anche nello specifico quella che lei ha accennato, ma il fatto che proprio gli enti locali diventino non solo un luogo dove si cerca di salvare il salvabile, ma diventino anche il soggetto che in qualche modo si oppone, che crea uno scontro rispetto a un problema che è gigantesco, che come abbiamo visto all'inizio è un problema complessissimo che coinvolge delle dimensioni molto molto più grandi. Non so, visto che qui parliamo a livello di laboratorio urbano, di città, Cinisello Balsamo, a me viene un po' questa domanda qua, anche se mi rendo conto che la questione è enorme. Allora, c'è una prima cosa che è... Prima di volevo completare la domanda un attimino, prima della risposta. Mi rifaccio a quello che ha appena detto Francesca, aggiungendo che riconoscendo, almeno condividendo almeno il pensiero che il patto di stabilità è una cosa che pagano i cittadini, cioè di fatto si parla di soldi bloccati nelle casse comunali, sacrifici che i cittadini pagano come servizi per andare a pagare un debito pubblico statale ed europeo ancora una volta che pagano i cittadini. Quindi capire se almeno come il pensiero unico di sinistra ci si può intendere sul fatto che il patto di stabilità è un ricatto e una cosa che pagano non quelli che sono i responsabili della crisi. Sì, poi gli stati li eleggiamo noi, i governanti degli stati, quindi c'è quell'elemento, sono tutti governanti legittimamente eletti, compreso quello di cui noi vorremmo rapidamente liberarci prima o poi. Su quello c'è un punto che secondo me poi dovremmo recuperare nella discussione, se si riesce a fare un passaggio. Aldo ha detto chiaramente che c'è un problema di debito trasferito sulle nuove generazioni. Questo è un tema grossissimo, perché guardate, noi lo abbiamo iniziato a pagare, cioè la nostra generazione, voi lo pagherete ancora di più, e il problema si riverbera su delle situazioni straordinarie, come il fatto che probabilmente, come dire, i miei hanno lasciato a me una casa, io lascio a mia figlia una casa se riesco a finire di pagare il mutuo, mia figlia non è detta che lascerà una casa, eh? Ok, capito, funziona così. Quindi il debito sulle nuove generazioni è secondo me un tema su cui dobbiamo tornare, perché guardate, noi possiamo anche fare il processo ai governi della spesa pubblica, in Italia ne abbiamo avuti tanti ed è giusto farlo storicamente, il processo ai governi della spesa pubblica, però nulla ci scrolla di dosso quel debito, cioè quel debito è un debito che sta tutto sulle spalle nostre in parte, vostre ancora di più. Sulla cosa dei comuni, allora ci sono delle iniziative di legge, proposte di legge di partiti che hanno sostenuto e stanno sostenendo la necessità di allentare alcuni elementi, alcuni parametri del patto di stabilità in direzione della possibilità di fare investimenti, per fare un esempio. Quindi, come dire, i comuni si sono attivati su questo, hanno un'associazione nazionale, c'è quel terreno. I partiti, che soprattutto quelli in questo momento di opposizione, che comunque governano molte realtà amministrative importanti, si sono attivati nel dibattito politico parlamentare su questo. Quindi c'è un terreno di iniziativa su questa cosa. Dopodiché io credo che come dire, la lotta dei comuni sia come un grande paradosso dell'azione collettiva. Cioè funziona la mobilitazione dei comuni se riesce a essere molto estesa e molto forte. Guardate, io credo che i comuni abbiano un grande pregio rispetto ad altri livelli istituzionali dello Stato, che essendo molto vicini ai cittadini possono essere in grado di trasferire meglio ai cittadini degli argomenti a favore, ad esempio, di misure che allentino in maniera motivata, seria, equilibrata, il patto di stabilità. Questa è un'opportunità che hanno i comuni, non hanno altre istituzioni dello Stato, non ce l'hanno. Io ravviso però che in questi anni noi l'abbiamo usata poco. È una discussione che, ad esempio, in sede politica nel PD l'anno scorso abbiamo fatto, non solo a livello cittadino, anche altrove, perché molti di noi ravvisavano un limite nel fatto che quando a Palazzo Chigi c'era Prodi avevamo avuto una pattuglia di nostri sindaci di centro-sinistra e si erano incatenati fuori a protestare. E adesso, se noi guardiamo quello che è accaduto da un anno e mezzo a questa parte, io ho la sensazione che noi per primi comuni e i nostri sindaci abbiano faticato a esprimere con forza e a manifestare un dissenso, un malessere con forza, insieme, uniti su questa cosa. Lo trovo paradossale perché, per dirla provocatoriamente, forse i comuni governati dal centro-sinistra sono stati, come dire, più aggressivi con Prodi di quanto siano stati con questo governo, nella situazione in cui ci siamo trovati. Però c'è uno spazio di iniziativa che può e deve essere percorso attraverso i canali istituzionali, ma è uno spazio di iniziativa soprattutto che può fare forte della mobilitazione dei comuni e la proposta di ragionare intorno all'intervento in allentamento di quelli che sono dei vincoli che potrebbero essere allentati per permettere anche di favorire la ripresa, e la può fare forte a partire dal fatto che i cittadini sono i primi a legittimare i comuni, quindi i comuni quando si muovono lo fanno avendo un raccordo con i cittadini che altre istituzioni dello Stato non hanno. Quindi secondo me in questo senso lì c'è la possibilità di una mobilitazione, e devo dire francamente che così come alcuni comuni di alcune realtà in questi anni si sono mobilitati per contrastare delle infrastrutture, adesso non entro nel merito se fosse condivisibile o meno quella protesta, non capisco perché fatichiamo molto di più in questa fase, noi tutti comuni, a mobilitarci sul serio sia sul fronte della sensibilizzazione dei cittadini, sia sul fronte dell'iniziativa rispetto anche a quelle che sono proposte che in sede politica già esistono e sono state avanzate. È chiaro che il terreno, secondo me, deve essere questo, però un terreno che è importante perché può avere il riconoscimento dei cittadini, cosa che i comuni possono fare, le province, le regioni, e fino ad arrivare allo Stato, cioè non c'è questo rapporto diretto, con i comuni c'è. E quindi secondo me questo può essere un elemento utile. Beh, io aggiungo rispetto alle domande sul patto di stabilità. Uno, guardate, il patto di stabilità è sicuramente un gioco per alcuni aspetti, ma non è. Cioè l'abolizione del patto di stabilità non è la panacea di tutti i mali e il mantenimento del patto di stabilità non è il danno di tutte le amministrazioni. Per cui credo che sul patto di stabilità ci sia, come dire, un eccesso di attenzione. Sì, ci sia un'enfasi. Nel senso che io credo che il patto di stabilità come strumento di controllo della spesa debba restare, poi debba essere in qualche modo ammorbidito, adeguato, riformulato. Poi ci sono state anche qui diverse proposte, ma dare contro al patto di stabilità così, perché comunque è la peggiore delle vessazioni, beh, non è sempre così. Peggio, voglio dire, per alcuni aspetti, per i comuni è stata la manovra di luglio o per alcuni aspetti anche il mille proroghe su alcune robe. Su questa cosa però non tutti stanno alzando gli scudi, perché poi passano comunque come atti dovuti. Rispetto ai comuni, cioè i comuni hanno fatto delle azioni, hanno fatto anche delle azioni emblematiche, sindaci con la fascia, sono anche usciti in maniera abbastanza forte. Dopodiché bisogna anche pensare che è difficile fare le istituzioni di lotta e le istituzioni di governo, perché i sindaci non è che possono fare sempre entrambi, quello che governa e poi quello che di lotta. Poi tenendo conto che i rappresentanti dell'organizzazione dei comuni, l'ANCI, la Lega delle Autonomie, hanno ad oggi una grossa rappresentanza di sindaci di centrodestra e quindi comunque in qualche modo meno incisivi. Vero è, e io su questo devo dire che in un momento come questo io credo che tutti i soggetti che possano muovere l'opinione pubblica rispetto a sensibilizzare questi temi debbano muoversi. Io vedo, uno, grossa latitanza dei partiti, e mi si dica i partiti non esistono più, e vabbè, non esistono più, però quando poi bisogna andare a votare, quando poi i partiti ci sono e risorgono, bene, che risorgano anche in queste situazioni. È vero, i sindaci possono muovere l'opinione pubblica, possono in qualche modo, come dire, sensibilizzarla, possono fare un'opera, come dire, di sveglia da questo punto di vista, per tenere alta la vicenda, però... Poi io dico, concentrare sempre sulla figura dei sindaci, sulla figura dei comuni e sulla figura degli amministratori tutte le valenze e tutte le azioni di ordine politico poi diventa pesante, diventa veramente pesante. Io credo che da questo punto di vista debba anche essere compito grande di altri. Ci sono i partiti, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono tante forme di rappresentanza sui territori, ci sono moltissimi comitati a livello nazionale, locale, microbico. Quindi da questo punto di vista un pochettino da, come dire, anche da singoli cittadini attenti, tutti possono un pochettino fare il proprio pezzo. Posso fare una domanda io? Romualdo, dici. Noi abbiamo... No, scusate, devo fare una domanda, se è possibile. Per Gianulli. Sono qua. Molte grazie. Il patto di stabilità era nato originariamente... con la prerogativa che ci fosse una tassazione delle rendite e delle transazioni. Come mai questo non è avvenuto? Perché non erano così collegate le due cose. Com'era allora? No, ci fu anche una proposta di questo genere, ma non è stato mai collegato così strettamente che io ricordo. No, secondo me non c'è stato proprio il No, ci fu un momento in cui balenò per un attimo quest'idea, ma due articoli di giornale forse, non fu collegato, già nel dispositivo non se ne parlava. Originariamente non era nato così. Originariamente serviva per redistribuire il reddito e per... far sì che anche i comuni col federativismo ne avessero un beneficio, non col federalismo, ma col federativismo, con la federazione dei comuni. Forse stiamo parlando di cose diverse, però, noi parliamo del patto di stabilità. Quanto? 2 anni? È stato... No, il patto di stabilità c'è da 10 anni. È stato introdotto prima di nazionale, cioè Europa, Italia, poi il comune. Ma io non l'ho pensata così, l'avevo letta così. No, non quando era fatto parlavo, quando ne parlavo, cioè, è stato il tentativo di non era fatto per le intenzioni, no, ma ci fu un momento in cui si accennò a questo tipo di sì, lì molto subito, molto presto. Allora, transazioni finanziarie e le transazioni sulle rendite, mettere una transazione. Che qui si è proiettato un volantino bellissimo, là in alto nella parte sinistra vediamo questa partnership Urban Lab ACLI per fare l'officina giovani apre le porte, per cui l'idea di creare un laboratorio di formazione politica in cui ci sono dei momenti di, diciamo, più frontali di intervento di alcuni relatori, tra cui Fasano che è ospite questa sera, in cui dibattere di alcuni temi fondamentali sulla politica, e poi uno spazio successivo per discutere molto più liberamente. Il tutto in una cornice molto informale e amichevole, al circolo ACLI di via Marconi, dalle 19.30 happy hour per chi vuole, poi dalle 21 il momento, diciamo, formativo e poi di discussione e dibattito. Poi verso le 11 si chiude, e si viene l'Anomalia per la birra, Anomalia che ringraziamo moltissimo per l'ospitalità sempre molto bella anche questa sera, e niente, adesso abbiamo questo volantino un po', ne avremo uno migliore? Vabbè, via mail avrete tutto, siete tutti invitati per costruire questo momento insieme, grazie, chiudi? Sì. Ringraziamo gli ospiti e buona serata. Io mi ero preparato l'introduzione del libro, però era più lunga, no, ma lo perché gli scenari. No, ma perché lo faremo all'università qui piuttosto. Perché poi un pezzo, guarda che quella roba che hai detto sul debito subito è tra me. E l'altro pezzo è, siccome il libro ha due fili, quello politico e quello economico, è chi fa le cose che ci siamo detti. Questa parte non è più nella posizione, diciamo, della fase iniziale della globalizzazione, per cui però individui anche una serie di problemi rispetto alla frammentazione politica. Cioè il grande casino è le dinamiche che dici tu e l'assenza degli stati coordinati a sufficienza per fare l'intervento di cui stiamo parlando. Questa è una delle possibilità.